Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Approfondiamo oggi insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre una novità che già abbiamo anticipato nei mesi scorsi, ma che sta suscitando molto interesse. Dal 14 giugno prossimo, novità per gli acquisti online. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Già l'avevamo annunciato, ma ormai questa scadenza si avvicina. Cosa succederà appunto tra pochi giorni? Succederà esattamente che i consumatori che effettueranno pagamenti o acquisti online avranno delle maggiori tutele rispetto a quello che la normativa fino ad oggi era. E soprattutto volevo cogliere anche l'occasione per ribadire come il diritto di ripensamento viene rivolto agli acquisti online e non agli acquisti dentro gli esercizi commerciali, perché ad oggi ci rendiamo conto che su quelle che so che è un'importante materia come quella che stiamo appunto spiegando ora c'è moltissima confusione. Dunque, la novità riguarda gli acquisti solamente via internet, il cosiddetto commercio elettronico, che è una realtà notevolmente in crescita. Questa decisione, che è dell'Unione Europea, si vota appunto per il Parlamento tra pochi giorni, questa decisione ricade su tutti i paesi dell'Unione Europea. Secondo te è stata presa perché il commercio elettronico è sempre più diffuso o perché questo tipo di commercio ha bisogno di maggiori tutele? Mirko, sostanzialmente per tutte e due, ma anche perché c'è una grandissima confusione. Oggi sostanzialmente le persone non sono sostanzialmente tutelate e quando capita che consegnano un prodotto che è danneggiato non si capisce mai chi è la responsabilità e soprattutto quali sono anche i tempi con cui deve essere regolamentato il rimborso. Ed esattamente questa nuova normativa prevede innanzitutto che il diritto di ripensamento si estende non più da 10 giorni ma arriva a essere di 14 e soprattutto prevede che la responsabilità della consegna del prodotto è unicamente del venditore. Poi ci sono altre importanti discussioni e punti ancora aperti ma che con piacere spiego ora, che riguardano il recesso e le clausole vessatorie, perché dal 14 giugno ci sarà l'obbligo della firma in calce al contratto, ma soprattutto in presenza di clausole vessatorie o di mancanza di questo tipo di informazione, il recesso può arrivare fino ad un anno. Gli acquisti online si fanno appunto con il computer, serve una firma, giusto? Cioè non basta solo cliccare su una casella, quindi ci deve essere anche una firma fisica, se non sbaglio cambiano anche le attivazioni, cioè non basterà più il consenso telefonico o solo la forma elettronica, ma anche questa è una garanzia in più. Certo, ci vuole la firma a consenso dell'acquisto e soprattutto ci vuole anche la possibilità che il consumatore, se ci ripensa, abbia la possibilità di ottenere entro un tempo certo, che sarà 14 giorni, dalla scadenza dei 14 giorni, i soldi indietro. E soprattutto è importante capire come eventuali costi determinati dalle transazioni o dagli acquisti online effettuati anche per il telefono devono essere regolamentati e non possono più esserci giochetti o strani intoppi che poi hanno come unica finalità quello poi di attivare tariffe all'insaputa del consumatore e quindi svuotargli quelle che sono i crediti sui cellulari o presentare bollette esose in caso di utilizzo di un telefono fisso. Nel caso si chieda il rimborso di quanto pagato, quanto tempo può trascorrere al massimo? Il venditore in questo caso, trascorsi 14 giorni, che è il termine entro il quale una persona può esercitare il recesso, deve restituire i soldi entro ulteriori 14 giorni. Quindi è importante capire che c'è una definizione certa di quella che è il periodo di restituzione delle cifre. Ma è anche importante ripetere come nei casi invece di un acquisto presso un esercizio commerciale non esiste il diritto di ripensamento ma il termine di garanzia, perché troppe volte l'Adico si trova quesiti del genere, ho comprato un articolo, cioè ho pensato, il venditore non mi ha voluto restituire soldi indietro. No, il venditore è tenuto a fare in modo che il prodotto acquistato sia conforme alle prescrizioni o alla regola d'arte, e in virtù di questo, se non è incerto e non riesce a poterlo garantire, è tenuto a sostituirlo o a restituire i soldi. Questo dicevi appunto nel caso del negozio fisico, quindi non del negozio elettronico. Torniamo sul tema dei costi. Acquistando online spesso può capitare che ci si trovi alla fine a pagare qualche euro in più per spese di spedizione che magari non erano state ben precisate, o altre piccole micro tasse. Anche tutto questo deve essere chiaro fin dall'inizio, cioè il totale deve essere ben esplicitato. Certo, ricordiamo che questo, Mirko, deve essere effettuato e deve essere recepito entro il 14 giugno e soprattutto, come hai detto te, deve essere molto ben esplicitato. Ma tengo anche a ribadire come per la prima volta finalmente si individuano anche le responsabilità nel caso che un prodotto venga consegnato rotto, perché troppe volte ad oggi l'Adico, nei vari casi che tratta, si è trovata di fronte a persone che hanno fatto gli acquisti, è arrivato rotto e poi il venditore si imbatta la responsabilità con il vettore o con il corriere di turno. Acquisti online e anche acquisti telefonici sono anche questi coinvolti in questa novità da metà giugno? Certamente, tutto quello che viene al di fuori dai siti commerciali, quindi può essere una televendita televisiva, un acquisto tramite internet, ma anche qualcosa che può avvenire per esempio tramite le bancarelle fuori dai negozi, magari per i mercati. Ecco, a proposito di telefoni, allora l'altra domanda è anche la telefonata ha un suo costo, spesso può essere un numero fisso da chiamare, spesso sono dei numeri con dei prefissi strani, anche qui è stata fatta chiarezza. Come detto, anche qui il costo della telefonata deve essere chiara, proprio per evitare che la persona si trovi ad incappare in una truffa sulla truffa, per cui chiarezza e certezza, queste penso siano le parole chiave per permettere ai consumatori di poter stare tranquillo. E questo potrà essere un modo anche per incentivare ulteriormente il commercio elettronico, il commercio online, che attualmente vale un bel gruzzoletto, 14 miliardi di euro, ma immaginiamo ci siano molti margini di crescita. Novità positive dunque dall'Unione Europea dal prossimo 14 di giugno sul commercio elettronico, sugli acquisti al telefono. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, alla prossima settimana. Grazie a te, Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.